Alta Voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Bumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State attenti a quello che adesso vi dico. L'agente più simpatico che dormiva da noi era il re della gomma, colui che riforniva gli empori di delicata merce di gomma, rappresentante della ditta Primeros, il quale ogni volta che arrivava aveva sempre una qualche novità, e così i clienti fissi lo invitavano al tavolo perché succedeva sempre qualcosa di spiacevole per qualcuno e quindi divertente per gli altri. Quel rappresentante distribuiva sempre tanti tipi di preservativo, di ogni colore e forma, e io, sebbene fossi ancora un piccolo, mi stupivo. E per questo mi erano odiosi i nostri clienti fissi che per strada facevano i fini, ma al tavolo, quando si scatenavano, diventavano veri e propri mici. A volte perfino delle scimmie, spudorati e ridicoli. Così ogni volta che veniva quel re della gomma, rifilava qualcuno nel piatto quel Primeros, magari sotto i clendlicchi, e quando il cliente voltava il clendlick, si sganasciavano delle risate perché al massimo entro un mese la stessa cosa sarebbe successa anche a loro. In generale, gli piaceva farsi dispetti. Così, il signor Zipnostek, quello che aveva una fabbrica di denti artificiali, buttava ogni momento dentro la birra di qualcuno un paio di denti o un pezzo di dentiera, e lui stesso poteva anche strozzarsi quando beve i propri denti, buttati nel caffè del vicino. Ma quel vicino aveva scambiato le tazze e il signor Zipnostek al tavolo poteva strozzarsi, solo che il veterinario gli dette una tremenda pacca sulla schiena, e i denti volarono fuori e caddero sotto il tavolo, e il signor Zipnostek, che pensava fossero denti della fabbrica, li calpestò, ma solo dopo si accorse che erano i denti suoi fatti su misura, e qui rideva invece l'odontotecnico signor Slosler. A quello piaceva fare le riparazioni rapide, con quelle si guadagnava di più. Anche per questo la sua stagione era quando si sparava le lepri e i fagiani, perché la sera, dopo la caccia, le brigate di cacciatori si ubriacavano a tal punto che molti cacciatori vomitavano i denti e se li spezzavano, e così il signor Slosler lavorava giornate intere e notti intere per riparare quei denti, perché le mogli non lo sapessero o perché in qualche maniera la faccenda restasse nascosta alla famiglia per quel paio di giorni. Ma quel re della gomma portava con sé anche altre cose. Una volta portò la cosiddetta consolazione delle vedove. Io non venni mai a sapere che cos'era, perché stava dentro una specie di custodia, come quelle dei clarinetti. Tutti l'aprivano e basta. Quella consolazione delle vedove faceva il giro del tavolo, così tutti sbraitavano, e poi subito la richiudevano e la passavano a un altro. E io, sebbene portassi le birre, non riuscii a sapere che conforto fosse quello delle nostre vedove. Una volta però il re della gomma portò una bambola di gomma. La compagnia stava seduta in cucina, era d'inverno, d'estate si stava seduti nel campo di bocce o vicino a una finestra isolata con un tendaggio, e quel re della gomma aveva tutto un discorso per quella bambola, e tutti ci sghignazzavano su. Me però non mi faceva ridere per niente, e ogni cliente del tavolo ricevette quella bambola, ma appena la prendeva in mano diventava serio e arrossiva, e l'accorgeva che gli sedeva accanto, e il re della gomma teneva lezione come a scuola. Signori, questa è l'ultima novità, un oggetto sessuale da mettere nel letto, un pupazzo di gomma di nome Primavera, e con Primavera ognuno di voi può fare quello che vuole, infatti è quasi come viva, ha proprio la grandezza di una fanciulla adulta, è eccitante, aderente e calda, bella e piena di sesso. Milioni di uomini aspettavano la Primavera di gomma gonfiata con la propria bocca. Questa donna, creata dal vostro respiro, ridona agli uomini la fiducia in se stessi e dunque una nuova potenza ed erezione, e non soltanto l'erezione, ma una splendida soddisfazione. Primavera, signori, è fatta di una gomma speciale, e fra le sue gambe sta la gomma delle gomme, la gomma di caucciù, con un'apertura adorna di tutte le protuberanze e cavità che deve avere una femmina. Un piccolo vibratore viene azionato da una batteria e compie un delicato movimento eccitante, e così il membro della donna viene mosso in modo naturale e ognuno, secondo il suo piacimento, può raggiungere il proprio piccolo orgasmo, e così ogni uomo è padrone della situazione. E affinché non dobbiate pulire questo membro di donna, potete far uso del preservativo Primeros. Prego, e per non scorticarvi, ecco qui un tubetto di crema alla glicerina. E ogni volta come un cliente gonfiava con le ultime forze quella primavera di gomma e la passava ad un altro, il re della gomma toglieva il tappo e la bambola si afflosciava, e così ognuno se la rigonfiava col proprio fiato, ognuno la vedeva crescere fra le proprie mani, con l'aria dei propri polmoni, e gli altri applaudivano e ridevano e non vedevano l'ora che venisse il loro turno, e in cucina si stava allegri e la cassiera si rivoltava e accavallava le gambe, era inquieta, come se ogni volta gonfiassero e sgonfiassero lei. Così giocarono a sazietà fino a mezzanotte. Viaggiatori, poi ne capitò naturalmente uno con un articolo simile, ma era una cosa ancora più bella, più pratica. Era un rappresentante di una ditta di sartoria di Pardubice. Il nostro maître, che non aveva mai tempo, era arrivato a lui per mezzo dell'esercito, di un tenente colonnello al quale aveva prestato servizio, e quello gli aveva anche consigliato questo rappresentante, che dormiva da noi due volte all'anno, e io vidi le cose, ma non riuscii a trovare il nesso. Lui dapprima prese le misure dei calzoni al maître, ma poi lo lasciò col solo panciotto e la camicia bianca, e sul petto e la schiena e intorno alla vita e al collo gli mise corte strisce di carta di pergamena, e su quelle strisce scrisse le misure e tagliava direttamente sul metro come se gli cucisse il frac con quelle strisce, però la stoffa non l'aveva. E poi numerò quelle fettucce, e quel rappresentante le ripose con cura in un sacchetto, e il sacchetto lo sigillò, e ci scrisse sopra la data di nascita del nostro maître, e naturalmente anche il suo nome e cognome, e prese la caparra, e disse che il maître ormai non doveva più occuparsi di niente, che doveva solo aspettare quel frac contrassegno, che non doveva andare a fare alcuna prova. E per questo infatti si faceva fare il frac solo da quella ditta, perché il maître davvero non aveva tempo, e io poi sentii quello che volevo domandare, ma che non avevo il coraggio di domandare. Come continua tutto questo? Il rappresentante lo disse lui stesso, stava riponendo la caparra nel portafoglio rigonfio e spiegava a bassa voce: «È quella rivoluzione, inventata dal mio capo nella nostra Repubblica, forse in tutta l'Europa, nel mondo, che gli ufficiali e gli attori e tutti quelli che hanno poco tempo come lei, signor maître, io tranquillamente gli prendo le misure, le mando in laboratorio, lì rivestono di quelle strisce una specie di bambola da sartoria, ma all'interno di quella bambola c'è un sacco in gomma che viene gonfiato lentamente finché riempie tutte quelle strisce incollate, che induriscono rapidamente per una colla a presa rapida, e poi, quando quelle strisce vengono tolte, allora vola su al soffitto della stanza, al suo busto, gonfiato per sempre. Lo si lega con uno spago, come si fa con i bambini nei reparti di maternità per non confonderli, o come nella grande camera mortuaria dell'ospedale di Praga si mette un cartellino all'alluce del cadavere per non confonderlo, e quando è il suo tempo viene tirato giù, e su quel manichino aereo si provano vestiti, uniformi, frac, secondo l'ordinazione. Poi ancora si cuce e si fanno prove. Tre prove si fanno. Si scuce e si ricuce a lungo, senza una sola prova con la persona viva, ma invece col suo rappresentante gonfiato. a lungo finché la giubba non cade a pennello e la si può bravamente spedire porto franco e contrassegno, e a ciascuno cade bene finché non ingrassa o dimagrisce, e per questo basta di nuovo il rappresentante che viene e misura quanto uno ha perduto o preso peso. In quei posti sul manichino tutto viene rimpicciolito o allargato secondo il bisogno del momento, viene aggiustato oppure si cuce un nuovo fracco o la mantella militare, e fino al momento in cui il cliente muore il deposito è pieno di manichini sul soffitto, alcune centinaia di busti colorati. Basta venire a trovare secondo i gradi, perché la ditta tiene tutto classificato in reparti. Il reparto generale, tenenti colonnelli e colonnelli, e maggiori, e capitani, e metri, e frackman come tali. E basta venire. Si tira la cordicella e il manichino scende giù, come un palloncino per bambini, ed è possibile vedere con precisione che aspetto aveva ciascuno quando si è fatto fare o rifare per l'ultima volta la giubba o la mantella. Questa cosa mi rese talmente tetro che mi proposi, quando avrò superato gli esami da cameriere, mi faccio fare anch'io un frac nuovo da questa ditta, affinché anche io e il mio busto veleggiamo sul soffitto di una ditta che è certamente l'unica al mondo, perché quella cosa non l'avrebbe potuto inventare che uno del mio paese. Spesso poi lo sognavo, come non il mio busto, ma io veleggiassi dal soffitto della sartoria di Pardubice. A volte avevo anche l'impressione di veleggiare al soffitto del nostro ristorante, alla Città d'Oro di Praga. Così una volta, verso mezzanotte, stavo portando l'acqua minerale a quel rappresentante della ditta Van Berkel, quello che ci forniva le bilance quasi da farmacia, con la macchinetta dal taglio fino fino per il salame ungherese, e neppure bussai, ed entrai, e lì vidi quel rappresentante, era seduto sul tappeto, anche questa volta come sempre. Lui, appena finito di mangiare, andava dritto in camera e gli si metteva in pigiama. E stava seduto accovacciato, e io come prima cosa pensai che stesse facendo un solitario, oppure leggendosi le carte, ma lui sorrideva beato, tutto inondato di felicità come un bambinello, e su tutto il tappeto deponeva lentamente un biglietto da 100 accanto all'altro. Aveva fatto già mezzo tappeto e non bastava ancora, perché dalla borsa estrasse un altro pacchetto di banconote, e prese a porle in bella fila, tanto precise come se sul tappeto avesse delle righe disegnate. Un reticolo, ogni biglietto sempre in un rettangolino, come già dipinto. E quando finì la fila, e quelle file erano allineate con la stessa precisione dei favi di miele delle api, fissò beato coi biglietti da 100, addirittura sbatté le due grasse mani, e poi ci si accarezzò le guance pieno di infantile entusiasmo, e così si teneva le guance fra i palmi, e godeva di quelle banconote, e poi continuò ancora, e stendeva altri biglietti sul pavimento, e se un biglietto era rovesciato o a testa in giù, lo girava, in modo che fossero tutti uguali. E io stavo lì, senza osare di tossire e di andarmene. Quei soldi erano un intero patrimonio, piastrelle tutte uguali, e soprattutto quell'enorme entusiasmo e quella silenziosa gioia aprivano anche a me prospettive mie, perché quei soldi piacevano anche a me allo stesso modo. Però quella cosa non m'era venuta in mente. Mi apparve anche la mia immagine, tutti quei soldi che guadagnerò. E per ora non biglietti da 100, ma banconote da 20 corone. E queste banconote da 20 me le metterò anch'io in fila così. Sentii un enorme piacere guardando quel grosso uomo puerile con un pigiama a strisce. E ormai sapevo e vedevo che quello sarebbe stato anche il mio compito per il futuro. Chiudermi dentro così una volta, oppure dimenticare di chiudere a chiave, e tuttavia disporre ugualmente sul pavimento l'immagine del mio potere, della mia capacità. Immagini che sono fonti di vera gioia. Belli dei miti ad mariti. una volta mi sorprese allo stesso modo anche il poeta tondo, signor Yodin. Abitava da noi. E meno male che sapeva dipingere, così al posto del conto il capo gli requisiva sempre qualche quadro. A lui aveva pubblicato nella nostra cittadina un libretto di poesie. Vita di Gesù Cristo si chiamava, un'edizione a proprie spese, è vero, anche lui però si era portato in camera tutte le copie stampate e lì sul pavimento metteva una copia accanto all'altra, senza posa si toglieva e rimetteva il cappotto, tanto era nervoso per quel Gesù Cristo, e così rivestì l'intera camera di quei libretti bianchi. E non bastò, così continuando il corridoio, quasi fino alle scale posò quei fascicoli, e di nuovo si toglieva il cappotto e dopo un attimo se lo metteva, a seconda di quanto sudava, se lo gettava solo sulle spalle, ma quando lo pigliava al freddo infilava di nuovo anche le maniche per avere un attimo dopo tanto caldo da togliersi rapidamente il cappotto, e gli cadeva continuamente dalle orecchie l'ovatta. Anche quella se la toglieva infilava continuamente a seconda di come voleva sentire o non sentire il mondo attorno a sé. E quel poeta, che predicava sempre il ritorno alla capanna, e infatti nient'altro dipingeva che capanne, e di nient'altro parlava se non del fatto che compito del poeta come artista è quello di cercare l'uomo nuovo, ma ai nostri ospiti non stava simpatico, oppure forse simpatico stava, però gli combinavano sempre qualche cosa. E infatti quel poeta nel ristorante non soltanto si spogliava e rivestiva, ma anche toglieva e rimetteva le scarpe a seconda di come ogni 5 minuti cambiava umore per quella ricerca dell'uomo nuovo. Allora si toglieva e metteva le galosce, così a quel poeta i clienti, quando si sfilava con le galosce, gli versavano dentro birra o caffè, e tutti guardavano, non trovavano la bocca con la forchetta, perché mangiando guardavano di sguincio il poeta che si metteva le galosce e dalle scarpe gli scorreva caffè o birra, e lui si metteva a tuonare e a gridare a tutto il ristorante: discendenza malvagia, stupida, criminale, per voi le capanne! E poi lacrimava, però non di rabbia, ma di felicità, perché considerava quella birra versata nelle galosce un segno di attenzione, che la città contava su di lui. È vero che non gli manifestava rispetto, però lo riteneva un giovane degno di lei. La cosa peggiore, però, fu quando gli bloccarono le galosce con un chiodo e il poeta vi scivolò dentro, e quando volle tornare al tavolo non ci riuscì, sicché per poco non andò a gambe levate per quante volte cadde sulle mani, tanto bene erano inchiodate quelle galosce, e di nuovo insultò i clienti, discendenza malvagia, stupida, criminale, ma subito glielo perdonò. E offrì un disegnino o un libro di poesie, facendoselo pagare subito per aver di che vivere. Lui in sostanza non era cattivo, al contrario, stava sospeso sopra tutta la città, e io lo sognavo spesso sopra la cittadina, come l'angelo sopra l'emporio all'angelo bianco, e agitava le ali, e quelle ali le aveva, io addirittura vedevo, e avevo paura di domandare di più al decano, io vedevo, quando si spogliava e vestiva, il suo bel volto si chinava su un quinterno di fogli, gli piaceva scrivere poesie ai nostri tavoli. Io vedevo solo il suo profilo serafico quando si girava, come sul suo capo si librasse un'aureola, un comunissimo cerchio, una fiammella viola tutto intorno alla sua testa, come la fiamma di un fornello acceso marca Primus, come se nel suo capo ci fosse petrolio, e sopra di lui splendeva quel cerchio sibilante che dà luce alle lampade delle botteghe. Anche quando camminava per la piazza, nessuno sapeva portare l'ombrello come quel nostro cliente, nessuno sapeva portare un pastrano gettato come per caso su una spalla come quel poeta, e nessuno sapeva neppure portare il feltro come quell'artista. Anche se dalle orecchie gli sbucava un batuffolo bianco di ovatta, e anche se, prima d'aver attraversato tutta la piazza, il pastrano se lo toglieva e rimetteva 5 volte, il cappello 10 volte, come se salutasse qualcuno. Ogni 5 minuti si riversava in bocca dei medicinali, sicché era sempre ripieno di quelle polverine come un mugnaio, come se si fosse rotto un sacco con la farina, così aveva petto e ginocchia tutti bianchi sul vestito nero, e certi farmaci, neurastenina si chiamava, quelli li beveva direttamente dai flaconi, e quindi intorno alla bocca aveva una specie di cerchietto giallastro, come se masticasse tabacco, e gridava, e tuonava, discendenza malvagia, stupida, e criminale. Fece un colpo di tosse, ma il signor Walden stava steso sul pavimento accanto al tappeto. Tutto il tappeto sembrava portare il disegno dei biglietti da 100, pieno di banconote verdi. Il signor Walden guardava oltre quel campo. Era allungato col grasso braccio sopra la testa a mo' di cuscino. Uscii chiudendo, poi bussai. Il signor Walden domandò: «Chi c'è?» «Paggio». «Io, il piccolo, porto la minerale». «Avanti», disse, e io entrai. E il signor Walden continuava a star steso sul fianco. Sulla mano teneva appoggiata la testa. I capelli li aveva ricci e pieni di brillantina. Gli brillavano, quei capelli, quasi come i brillanti all'altra mano. Ed era di nuovo tutto sorridente e disse: «Dammene una e accucciati». E io tirai fuori dalla tasca la pribottiglia per i tappi di sughero e la corona, e la minerale gorgogliava piano piano. E il signor Walden beveva, e nelle pause indicava le banconote, e parlava piano e amichevole come la minerale. «Io lo so, tu sei già stato qui, e io ho lasciato che ti saziassi gli occhi. Ricordati, i soldi ti apriranno la strada in tutto il mondo. Così mi ha insegnato il vecchio Koref, dal quale ho imparato il mestiere, e quello che vedi qui, su questo tappeto, l'ho guadagnato in una settimana. Ho venduto 10 bilance, ed è la mia provvigione. Hai mai visto una cosa più bella? Quando arrivo a casa, le metto così in tutto l'appartamento. Con mia moglie le mettiamo su tutti i tavoli e sul pavimento. Compro un salame, lo taglio a dadini e lo mangio per tutta la sera. Non mi tengo nulla per il giorno dopo, perché la notte comunque mi sveglierei e quel salame lo finirei. Mi piace da morire il salame, un salame intero. Un giorno te lo racconto, quando vengo un'altra volta». E poi Walden si alzò, mi accarezzò, mi teneva la mano sotto il mento e mi guardava negli occhi e diceva: «Tu andrai lontano, ricordatelo, ce l'hai dentro, capito? Solo saper prendere... Ma come faccio?» E lui disse: «Ti ho visto vendere Würter alla stazione. Io sono uno di quelli che ti hanno dato una banconota da 20 e tu mi hai dato il resto per una corona e 80 così lentamente che il treno si è mosso ed è partito. E poi», disse il signor Walden e aprì la finestra e prese una manciata di spiccioli dalla tasca dei pantaloni e la gettò sulla piazza deserta. Aspettò. Tese un dito perché io ascoltassi come tintinnavano e rotolavano le monete sul selciato e aggiunse: «È così che devi saper gettare gli spiccioli dalla finestra, perché dalla porta ti entrano i biglietti da 100. Capito?» Si levò il vento e c'era corrente e tutti i biglietti da 100 si levarono come a comando, saltellarono, si animarono e si ammucchiarono come le foglie in autunno in un angolo della camera. E io guardavo così il signor Walden e guardavo sempre così tutti i commessi viaggiatori, e quando li avevo guardati a sazietà ogni volta pensavo: che biancheria avrà, che camicia. E avevo sempre l'idea che avessero tutte le mutande sporche, alcune proprio gialle al cavallo, che avessero tutti i colletti delle camicie sporche, che avessero i calzini tutti impiastricciati, cosicché se non fossero stati alloggiati da noi avrebbero certamente buttato calzini e mutande e camicie dalla finestra, come le buttavano dalla finestra dei pubblici bagni Carlo, dove ero stato tirato su per 3 anni dalla nonna. Mia nonna, dentro i mulini vecchi, aveva una cameretta, uno sgabuzzino, dove non arrivava mai il sole. E dove il sole neppure poteva arrivare perché era rivolto a nord, e da un lato era proprio accanto a una ruota di mulino. Quella ruota era così grande che finiva in acqua dal primo piano e arrivava fino al terzo. E appunto quella mia nonna aveva potuto prendermi con sé per tirarmi su. Mia madre, lei mi aveva avuto da nubile e così mi aveva dato a sua madre, cioè a mia nonna. E questa nonna abitava proprio accanto ai bagni Carlo, e tutta la sua fortuna nella vita fu che le dessero in affitto quello sgabuzzino dentro il mulino. Lei pregava sempre perché Domineddio l'aveva ascoltata e le aveva dato quello sgabuzzino proprio accanto ai bagni pubblici, perché quando arrivava il giovedì e il venerdì, come in quei bagni si lavavano commessi viaggiatori e gente senza fissa dimora, così mia nonna dalle 10 del mattino entrava in stato di allarme. Anche io aspettavo quel giovedì e venerdì, e anche gli altri giorni, ma lì di biancheria dalla finestra dei gabinetti non ne volava così spesso. La guardavamo dalla finestra, e ogni momento qualcuno di quei viaggiatori buttava davanti alla nostra finestra le mutande sporche. Quelle si fermavano un attimo nel volo, si facevano vedere, e poi cadevano giù. Alcune cadevano in acqua, allora mia nonna si chinava per tirarle fuori con un gancio. Doveva reggere la nonna per i piedi perché non cadesse dentro quelle profondità. Oppure quelle camicie buttate via a un tratto spalancavano le braccia come un vigile a un incrocio o come Cristo Signore. Così nell'aria quelle camicie per un attimo si crocifiggevano e a testa in giù cadevano sui cerchioni e sui dischi di quella ruota di mulino. E la ruota girava. Ed era sempre un'avventura, secondo la situazione, o si lasciava la camicia sulla ruota finché la rotazione portava la camicia, o le mutande su una pala alla finestra della nonna, sicché bastava stendere il braccio e prendere quella camicia. Oppure si toglieva col gancio la camicia dall'asse sul quale si era avvolta, e dove la rotazione la stringeva. Ma anche quella la nonna la prendeva e col gancio la tirava dentro la finestra della cucina e subito buttava tutto nella tinozza, e la sera risciacquava con le mutande, camicie, calze sporche. L'acqua la versava subito di nuovo in quella che scorreva sotto le pale della ruota del mulino. Bianche mutande volavano fuori nel buio dal gabinetto dei bagni Carlo, una bianca camicia sullo sfondo buio dell'abisso del mulino, e allora per un attimo splendeva nella nostra finestra una camiciola bianca o una mutanda bianca, e la nonna era capace di prenderle col gancio ancor prima che finissero giù nel profondità sui raggi bagnati e lucidi. A volte di sera o di notte, quando dall'acqua del profondo tirava aria e rigurgiti d'acqua salivano in alto e acqua e pioggia sferzavano la nonna in viso, tanto che a volte doveva combattere con quella corrente d'aria per prendere la camicia. Tuttavia la nonna aspettava con gioia ogni giorno, e specialmente il giovedì e il venerdì, quando i piazzisti cambiavano camicie e mutande. E siccome avevano guadagnato soldi, si compravano calze e mutande e camicie nuove, e dalla finestra dei bagni Carlo le vecchie le buttavano giù, dove stava appostata la nonna col gancio. E poi lavava, e aggiustava con la biancheria e la riponeva in una credenza, e poi la portava in giro per i cantieri e la vendeva ai muratori e ai manovali, e così viveva modestamente, ma bene, tanto che poteva anche comprare a me i panini e il latte per il caffè latte. Quello fu probabilmente il mio periodo migliore. Ancora oggi continuo a vedere come di notte la nonna è appostata alla finestra aperta, ed autunno ed inverno non era una cosa facile, e vedo sempre come una camicia buttata via si ferma a un tratto per un attimo nella finestra, per quella corrente dal basso spalanca le braccia, e la nonna con un movimento repentino la tira a sé, perché dopo un momento la camicia afflosciata come un uccello bianco colpito sarebbe caduta nei gorghi d'acque nere, per poi lentamente comparire come martirizzata sulla ruota di martirio del mulino, ormai senza più corpo umano, e poi volare lungo il cerchio bagnato. E quando spariva dalle finestre del terzo piano, dove per fortuna c'erano le macine e non persone come noi, con le quali avremmo dovuto combattere per quelle camicie e mutande, e poi aspettare che la camicia tornasse dopo aver fatto il giro, scendesse giù, e se si fosse sganciata sarebbe caduta nella corrente d'acque nere, e quella biancheria sarebbe stata risucchiata dalla gora sotto il tavolaccio nero, perdendosi da qualche parte, lontano dal mulino. Vi basta? Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.